brother. What's up? This is a group recording, man. Yeah, I brother, can dig like, it. Stop. Right on. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Right on. Right on. Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find. E non è un caso questa colonna sonora col capolavoro Marvin Gaye, What's Going On, concept album Motown, ha segnato la storia della black music e non solo. Poi ve ne parleremo. Ne parliamo intanto di un contenitore che portiamo in frequenza sui 103.1 e abbiamo già conosciuto Margot Lab, ma abbiamo motivo di aprire la stagione con questo insieme di appuntamenti tra filosofia, musica e motivo di aggregazione, grazie anche alla nostra mattiniera Silvia qua al telefono con noi. Buongiorno Silvia. Ciao William, buongiorno anche a te. Allora, 2023 si parte con Margot Lab. Ci puoi dire qualcosa di più intanto a proposito di questo palcoscenico? Oggi siamo in vena teatrale, di cui ho appena dato una infarinatura di presentazione alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. A te la parola, Silvia. Sì, dai, quest'anno dopo l'estate abbiamo veramente, insomma, ci siamo organizzati e insomma abbiamo da proporre appuntamenti davvero interessanti, secondo me, sia di filosofia, come dicevi tu, sono un ciclo di 7 incontri gratuiti col patrocinio del Comune di Bologna. E diciamo che vogliamo dare un piccolo contributo a rimettere in gioco gli interrogativi filosofici in relazione all'attualità, alla realtà che ci circonda. E sono tanti, perché insomma sono 7, sono tenuti da docenti universitari, però visto che cerchiamo di promuovere il dialogo, non sono assolutamente delle lezioni frontali e basta, ma anzi vorremmo lasciare grandissimo spazio alle domande di chi parteciperà. E quindi intanto Margot Lab, dove, come e quando? Sì, noi siamo una nuova realtà, uno spazio culturale, teniamo corsi, siamo in Galleria Falcone Borsellino, quindi in pieno centro, all'1/B, di fronte alla questura. gli incontri saranno, partiamo il 18 ottobre alle ore 20, sono tutti mercoledì, non sì. proprio tutti, però insomma svariati mercoledì, dal 18 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre, 29 novembre, 6 dicembre, 13 dicembre, 20 dicembre, poi c'è Natale. Ma non vogliamo andare tanto avanti, eh? Infatti esatto. Non me la son sentita, sai, di mettere la sigla del Last Minute, magari ci risentiremo o avremo modo nuovamente di parlare nell'avvicinarsi al 18 ottobre, dove si partirà ufficialmente. Incontri, filosofia, musica, ho messo Marvin Gaye non a caso, non solo soul, anche tante altre realtà importanti musicali legate al rock. Io ho la passione della black music, quindi i due incontri, uno su Marvin Gaye e l'altro su Nina Simone, hanno attirato particolarmente la mia attenzione. Ci puoi parlare di Margo Lab in musica edizione 2023? Sì, abbiamo deciso di lanciare questi incontri di monografie musicali. È nata un po' da una domanda che ci siamo posti noi della Margo Lab, ma poi insomma penso che capiti un po' a tutti, cioè di ascoltare anche tanta musica, ma poi di non sapere tantissime cose sugli artisti che conosciamo, oppure perlomeno non di tutti. E da questa esigenza abbiamo pensato, perché non approfondire anche le vite di chi sta dietro, no? A chi fa musica, perché poi magari li ascolti poi anche con un'altra coscienza, con un'altra consapevolezza. Certo, certo, è giusto. E sono poi tutte personalità super affascinanti, anche a volte bizzarre, quindi ci sono anche curiosità carine, insomma, da è la biografia di un grande della musica, è sempre qualcosa che va a complementare l'ascolto con altri motivi, come hai detto tu, con la parola giusta, di consapevolezza, per cui esatto. Molto bene. Marvin Gaye, Nina Simone, che ho portato anche Nina Simone nella nostra colonna sonora, sì. Con la quale concluderemo magari la conversazione con Silvia. E torno alla filosofia, leggo 8 novembre la mostruosità, incontro con il docente Filippo De Lucchese, numeri, realtà ed Indiana Jones con il professor Daniele Mollini, Aristotele e il dovere di essere felice, questo è un altro trattato con la prof Carlotta Cappuccino, bioetica, testa o cuore con la prof Marina Lalatta Costerboso, voglio essere preciso, 20 dicembre, bello, tragedia greca e cinema contemporaneo con il professor Giovanni Giorgini. Ecco, qui anche questo è un bel menù, per quanto riguarda gli incontri, la filosofia. Sì, il 25 ottobre, sì. Esatto, il 25 ottobre poi c'è Per Gemme Filosofia, io mi sono, quando ho scoperto questo docente di filosofia, Stefano Marino, mi sono innamorata, Per Gemme è uno dei miei gruppi preferiti, quindi sono cresciuta negli anni 90, quindi il grunge per me nel cuore, e quando ho scoperto che questo docente si occupava, ha scritto anche un libro su questi gruppi grunge rock, soprattutto degli anni 90, però anche la filosofia che c'è dietro ai loro testi, ecco, l'ho trovato veramente interessantissimo, perché è interessantissimo, e quindi l'ho subito detto, devi venire assolutamente. In più la cantautrice Leonora Guzzi, insomma, sarà un'occasione anche per fare della musica acustica dei Pearl Jam, quindi insomma veramente per chi ama la musica e la filosofia credo che sia un appuntamento un po' imperdibile, ecco. Allora, ha un nome la stagione? Che lo diciamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori? Sì, è la filosofia che parla al presente. Ok, e già questo dà un'idea per quanto riguarda il filo conduttore della rassegna, che avremo modo anche noi di Radio Città Fujiko di seguire, grazie a Margo Lab. Immagino che ci siano piattaforme social per avere consultazione più comoda. Assolutamente, esatto, il nostro sito margolab.it, nella pagina incontri gratuiti e in quella di musica live trovate sia gli appuntamenti di filosofia, che ribadisco sono gratuiti, e quelli invece di le monografie, che hanno un costo 10 euro più la tessera di associativa. Grazie, buona stagione. grazie mille. Ciao, un saluto anche a Eugenio. Ciao. Va bene, grazie. Ciao. Ain't got no children, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no love. Then what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. I got my hand. Sul cubo dei cambi, Paolo Onofri sta per essere della partita per domani, con l'idea, il compleanno della settimana e la monobiografia dedicata al protagonista, con tanto di colonna sonora e non solo, sfaccettature poi che da lì vengono ispirate nel Mood Groove, la rubrica del martedì. Questo per domani a colazione, eh? I got lives. Sul cubo dei cambi, come si suol dire, no? Del Dream Team del Breakfast Club. Alle ore 7 vi aspetto, tra poco ed IPA enciclopedico dopo la pubblicità, Liberi Dentro, poi rassegna stampa e lo sport con Mingo and Company. A tutte e a tutti, grazie per l'attenzione, un buon lunedì, una buona settimana dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani. I got love.